Eccoci. Beghe. Scusateci, siamo con un quarto d'ora di ritardo, ma ci avevano sabotato il mixer. Sabotaggio. Questo è Ragnar Paisa, come tutti i lunedì, Duccio, Tommy, siamo solo in due. Controradio, la nostra email info.ragnarpaisa@gmail.com. Mentre il nostro numero di telefono è 055 73 999 33. Stasera bisogna far per bene, c'è gente connessa da lontano, bisogna... I wanna say hi to Mr. Washington from Orlando, Florida, and the whole family, the whole Washington family. Washington, the hooligan. The hooligan. Un saluto anche a Shelby, Nico. Certo. Un saluto anche ai brother Colossus e Biga. Esatto. E a tutta la gente che era a casa ci chiamava: oh, ma stasera, ma allora, ma la radio. Eccoci, ci siamo. Perso un quarto d'ora, ma ora si va lisci fino alle 22:30. Ok. Si comincia? Cominciamo. Dai. Questo è il set di Duccio, Washington Passi Line Up. We'll be right back. Kaiser, Control Radio. Classic. Senti che selezioncina. Classic selection. Classics. Classics. Diciamo delle serate di venerdì, eh? Esatto. Partirei da venerdì 6. Venerdì 6? O da quale venerdì? C'è un altro venerdì. C'è anche venerdì 5. Cascheranno tipo, sicuramente altri venerdì nel giorno 6, ma non di febbraio. Ma non di febbraio. Attenzione. Quindi partendo con questo venerdì, esatto, ovvero il 6, in quella del Viper, quindi via Pistoiese. Piagge. Enzi da Torino, One Mic, un campione di freestyle uscito da non troppo con il suo nuovo album Rocksteady. Esatto. Insomma, Enzi è un toro, eh. Enzi molto vale, bravo, sì. vale veramente la pena, cioè a livello, secondo me, cioè ti posso dire personalmente, però anche no, dal punto di vista, cioè a livello di freestyle, come Enzi c'è veramente, non gli sta dietro nessuno. Sì. Ti sto per dire c'è veramente poca gente, però guarda, cioè Kenzie è veramente un campione. Sì. Non gli si può dire niente. Lo stesso niente, giorno venerdì Viper Theater, Enzi che presenta il nuovo disco Rocksteady. E questa è una. Poi ci spostiamo a Pisa invece, a Lumiere, dove i nostri cari Pizzo e Drago, I brother di San Antonio 42. Esatto. Cioè, cercatevi il negozio su internet San Antonio 42, iscrivetevi alle newsletter, perché insomma i dischi ce l'hanno buoni loro, eh. Insomma, Pizza e Drago organizzano il live di Dre Love con la sua band a Lumiere, che è in pieno centro via stavo leggendo l'indirizzo di San Antonio 42. Il Lumiere è un vecchio cinema, è un locale, è stato ricavato da un vecchio cinema. Non ricordo la via, comunque insomma cercate Lumiere Pisa, cercate, sì. Sappiate che è in pieno centro, vicino a Piazza Carrara. Esatto. Le altre serate del 7, dopo? Sì, le altre serate le diciamo dopo. Dopo. O magari le dico io, visto che te ne sta andando. Allora, sabato 7 invece, per gli appassionati di reggae, il nostro fratello piccolino... Jazz Station Sound System organizza questa super serata. Non è che vede, diciamolo, perché tanto cioè, siamo in diretta, e che siccome siamo in due, a me se disco è finito, la console è di là e la regia è di qua, sono due stanze diverse, quindi non è che me ne stavo semplicemente tornando a rimettere indietro, sul disco indietro, perché sennò fa brutto, no? Sentire il silenzio sotto, cioè sì, non è un granché, insomma, nella serie. Quindi dopo questa pantomima direi, cioè puoi andare anche a fare te la tua selezione. Sì, ormai ho cominciato a dire di questa, finisco. Sabato 7 febbraio al Sonar di Colle Valdelsa, quindi più Siena che Firenze. Esatto. Jazz Station organizza questa super serata con ospiti Earl 16, singer storico di Studio One, e l'inglese African Simba, tutti e due supportati dalla band The Roots Defender, che non ho mai sentito ma mi hanno detto sono molto bravi. E subito dopo poi Dancehall con Jazz Station e Baba Boom Hi-Fi da Napoli al Sonar, quindi segnatevela questa sabato 7. Bene, bomba. Io me ne vado. Un salutone all'Apo. Certo, un salutone all'Apo. Vado io? Vai te, e poi ci si inventa. Benissimo. We'll be right back. Esta rumba buena, Hermosillo de ojos azules se enamoró de una princesa. Su carruaje por el camino paseando vio. Cuenta que un pastorcillo de ojos azules se enamoró de una princesa. Su carruaje por el camino paseando vio. Se pasó llorando sin cesar ahí. Y cuentan que el pobre pastorcillo aquella noche murió llorando. Y la princesa con su pestillo esa misma noche se la pasó bailando. Yo moriré bailando, yo moriré gozando. La pobreza y yo vamos de la mano, por eso la princesa no me da un break en mi mano. Yo moriré bailando, yo moriré gozando. Ella tenía su jevito y yo por poco caigo de pecadito. Yo moriré bailando, yo moriré gozando. Se te acabó tu buena suerte, princesa. Yo me puse muy nervioso cuando llegó la pelona. Por más que yo le rogué, esa sí que no perdona. Yo quisiera que tuviera, que muchos somos aquí. Todos tienen la esperanza de volver a revivir. ves que yo te veo, pero tú no me ves a mí. Piensas que estoy tan lejos. Gi. Avevamo lasciato fuori una serata del 7, sabato, no? Di sabato 7, ovvero Grabber Soul, è la terza stagione. Al NOF Club ci sarà Chrono e Slash live, chiaramente hosting by Mille Lemmy, come al solito, e Lemmy, Biga Lemmy Miller Up, ta capito cicciottà, se no ta una cortellata. Biga 17, chiaramente. Of course. Al NOF, che è in Borgo San Frediano, 17. Chiaramente, visto che parliamo di Mille Lemmy, ricordiamo. Esatto, le serate di tutte le domeniche al Jazz Club. Esatto. Assolutamente, da andare. No, perdona. Yes, we jam. Si chiama Yes We Jam, è la serata di Mille Lemmy Rap. Poi, giusto, segnaliamo l'ultimo Blast Podcast di Stretto Blaster. Bravo, l'ho sentito oggi, guarda, lo volevo dire, ma me ne ero scordato. Bredda Saga in Heavy Like Lead, chiaramente come quello che già aveva fatto, già un podcast aveva fatto Bredda Saga. Sì, anche un paio forse. Tutto reggae, sì, a questo più che giro, altro dub. A questo giro una selezione proprio di dub 70, quello proprio King Tubby, Tubbies, Aggrovators, quella roba là, insomma. Sì, Niney, Observer, esatto. Observer, All Star, Joe Gibbs, Shantist. Per gli appassionati di Bunny Lee, del dub originario, diciamo. Esatto. Poi volevo segnalare l'uscita del nuovo disco di Mecna la settimana scorsa, Lasca, che è uscito chiaramente per Macro Beats. Interessante da ascoltare, andate a cercarvelo. Mecna, Lasca, fra l'altro sarà anche a Firenze, non ricordo quando, per l'Instore. Alla galleria del disco sotto la stazione. Quindi, insomma, se volete prendere, casomai la settimana prossima vi dico per bene quando ci sarà, vi riaggiorneremo. Sì. E lo potrei guardare anche sinceramente in diretta, se non mi sbaglio, se non ci metti tre quarti d'ora. No, vabbè. Si può fare anche live. Allora te lo dico, non te lo dico, lascia fare. Ve lo diciamo la settimana prossima. Che volevo dire? Lo diciamo la settimana prossima, perché di questo progetto Lee Scacciucco su Detox Record, però purtroppo mi sono scordato di portare le robe. È un progetto, intanto ve lo butto lì, la settimana prossima. Hai toppato? Ho toppato. Vabbè. La settimana prossima delle robe. Sì, comunque è una storia toscana, e quindi insomma. Bene, intanto cercatevi anche il disco, intanto, Cercatevi Detox Records su Facebook e andate a vedere di quello che si parla. È uscito il video, appunto, il video estratto. Quindi Detox Record, cercatevelo su Facebook. Comunque beccatevi il primo video estratto da questo Lee Scacciucco con Pezzone, MC di Pisa, vecchia scuola, bomba di pezzo, fra l'altro. Poi la settimana prossima ve lo suoniamo, intanto andate a beccarvi il video. How Can People Be So Heartless? Si chiama Arez Production. Questo è Ragnar Paisa, rimanete con noi qualche altro minuto e poi ci sentiamo lunedì prossimo. Non salga, si tu vivi nel manghito, non salga, si Ricordatevi che Controradio è aperta. È aperta il sabato dalle 10 alle 19 per le tessere ed acquistare le magliette. Supportate Controradio. Posible.